child is caught in a quandary that drives her wild. Broken and busted and burned out in blue, she knows what is right is something she just can't do. In settimane in cui ci si è appena lasciati alle spalle l'anniversario del 25 aprile, giorno della liberazione, la lettura di un libro come La primavera dei mai morti di Piero Colaprico e Pietro Valpreda può essere un utile esercizio di memoria. Per questo l'ottava puntata di A parole in breve torna sul romanzo pubblicato per la prima volta nel 2002 da Marco Tropea Editore e nel 2006 dal Saggiatore. Il protagonista è un seriale della coppia di autori, Pietro Binda, ex carabiniere in pensione, che rievoca agli amici di un bar della periferia milanese un caso su cui lavorò alla fine degli anni 60. La vicenda inizia con un Binda neanche trentenne, richiamato da un campo d'addestramento che non sa nemmeno dove si trova. Il colonnello, un magistrato e un lucidissimo funzionario elvetico gliene spiegano la ragione. Deve indagare sulla morte di un anziano ungherese con cittadinanza svizzera. È stato assassinato dopo aver incontrato un editore milanese riparato oltre le Alpi perché voleva pubblicare le sue memorie. Memorie fatte di spionaggio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, collaborazionismo coi nazisti e fughe di perseguitati oltre i confini dell'Italia occupata. L'indagine porta Binda a infiltrarsi nel carcere di San Vittore, sotto le mentite spoglie di un detenuto. Lì sono rinchiusi anche i presunti assassini dell'ungherese, che vengono uccisi uno dopo l'altro senza che sia possibile intervenire. E quando il carabiniere, riconosciuto da un altro detenuto che aveva arrestato qualche mese prima, sopravvive alla rivolta dei carcerati, decide di proseguire in un'inchiesta che non sembra andare a parare da nessuna parte. Ma da qualche parte parerà Binda. Parerà nella storia di un contrabbando che, oltre al mercato nero del periodo 43-45, si nutre anche di tratta di esseri umani, venduti quando era conveniente, ed era conveniente spesso, ai nazisti. Ne viene fuori un ritratto dei tempi di guerra feroce e inumano, ben oltre le vicende che si conoscono. E il ritratto prosegue, in collegamento temporale logico, fino agli inizi della strategia della tensione. Il motivo lo spiega a Binda, un amico del bar. Non dimenticarti che la storia d'Italia è cambiata in quel periodo. Ci sono stati gli attentati ai treni nell'agosto del 69 e poco dopo è stato ucciso, mentre guidava il gippone, l'agente Antonio Annarumma. Vuoi che continui? Piazza Fontana, la morte di Pinelli. E se non ricordo male, nel luglio del 70 scoppia la rivolta di Reggio Calabria, nel dicembre passa la legge sul divorzio e poco dopo c'è il tentativo di golpe e ho sempre pensato che le storie fossero in qualche modo connesse. Nel 71 arrivano le Brigate Rosse e se proprio vuoi saperlo, il posto dove sei stato ad addestrarti era in Sardegna, a Capo Marraggio o Marrongio, insomma lo stesso dove... Oh, ma dove vuoi andare a parare? Chiede Binda. Lascia stare, un giorno te lo spiegherò come si legge la storia dalla parte dei vinti. E un po' come le ombre cantate da Dennis Logan, questi sono tasselli che si aggiungono a una storia che forse non si finirà mai di scrivere nella sua interezza. Thank you.